a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuovo appuntamento con la trasmissione a Regola d'Arte. Un saluto a tutti da Francesco Galante. Come sapete, trattiamo degli argomenti che riguardano l'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Oggi con noi al telefono abbiamo Laura Dalla Montà, presidente del sistema di categoria TAC, cioè tessile, abbigliamento e cuoio dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Ben trovata con noi in frequenza. Buongiorno a tutti, io la ringrazio tanto per questa opportunità. Bene, signora Laura, allora parliamo proprio di questo settore, un settore importante per l'artigianato, il settore tessile, abbigliamento e cuoio. Lei li rappresenta. Che cosa vogliamo raccontare di questo settore? Vogliamo dire che nel territorio siamo stati per anni, la categoria trainante, in particolare nel mondo femminile. Attualmente ci troviamo quasi come gocce d'olio in mezzo al mare. In questo periodo stiamo soffrendo in particolare come non mai, forse molto di più della crisi tanto annunciata del 2009. La motivazione è che quelli che negli ultimi 5-6 anni sono resistiti nel mondo dell'alta moda ormai si trovano a non avere neanche più commesse. L'unico sistema trainante che possono avere qualche azienda è nel prodotto proprio. Attualmente come confezionisti, io parlo anche, rappresento anche il mondo del terziario in particolare, perché comunque erano quelle che erano tanto presenti. Nel mondo del terziario siamo ai sgoccioli. In particolare perché prima temevamo tanto il lavoro cinese, che poi sì, effettivamente non è stata l'unica piaga, perché comunque loro si sono portati via la fetta del medio-basso, poi pian pianino si sono alzati nel medio-alto e ora stiamo vedendo che addirittura questo prodotto non riescono neanche più loro ad operarlo nelle loro aziende. Questo ci fa tanta paura, perché pian pianino saremo costretti a chiudere le aziende e ci verrà a mancare un mestiere importante, perché comunque chi lavora nel tessile, oltre ad avere una grande manualità e in particolare, come si dice, dedizione anche per questo lavoro, perché è una passione, pian pianino verranno a mancare queste figure e resteremo proprio senza rappresentanze che possano portare avanti quello che è il prodotto Made in Italy. Leggevo proprio l'altro giorno di Stefanella che ha fatto un concordato fallimentare, no? Quindi anche questo è un segno dei tempi che cambiano. Molto del tessile che si faceva in Italia è stato tutto spostato in altri paesi. Sì, ma quello che più ci rammarica è che i prodotti vengono fatti all'estero e tendenzialmente si pensa di consumarli in Italia. Una cosa che si è battuto anche in particolare il sistema moda è stata la certificazione del Made in Italy, poi si sta combattendo un po' per la mappatura. Quest'anno abbiamo aderito in parecchie aziende per quello che riguarda l'etichetta parlante. Noi dal basso stiamo cercando di organizzarci, ma dall'alto non ci sente nessuno. Rammarico più grande quando si vedono le sfilate o che si parla di prodotto interno, e effettivamente chi vive sa benissimo che da noi non passa quasi nulla. E questo fa sì, come si dice, che pian pianino non ci saremo più. Fortunatamente in questo sistema abbiamo il calzaturiero che ha preso piede. Loro effettivamente in alcune zone si sono anche organizzati, creando anche aggregazioni di impresa, e questo ha fatto sì che la loro forza li abbiano, come si dice, anche un po' tirati su e presentati a quello che è il mondo del consumo. Certo, quindi l'unione fa la forza, l'unione in qualche modo. Capisco quindi che è un settore che è veramente in difficoltà. Fra poco parleremo anche del progetto 100% Made in Italy, che in qualche modo ci ha già in parte annunciato. Quali altre cose potremmo mettere sul piatto a livello di problemi e anche di possibili soluzioni? Allora, problemi, quello che rammarica è che comunque in questo sistema negli ultimi 4-5 anni non c'è stato motivo di fare investimenti nelle aziende, sì, perché comunque si corre con il mercato anche con gli investimenti, e allora quando tu non produci ricchezza dentro nelle aziende non hai neanche la possibilità di investire. Nei nostri casi dobbiamo puntare nelle risorse umane, ma contemporaneamente anche in quello che il mondo produttivo ci propone. E quando ci viene a mancare questa possibilità di investimento, tante volte perdiamo la competitività, dove noi siamo costretti in certi casi a lavorare manualmente. E il mondo, mi dispiace ribadirlo e ripeterlo, del lavoro cinese, loro sono più competitivi perché la loro marginalità gli ha permesso anche di investire in macchinari tecnologici, a differenza delle aziende che vivacchiano in quello che, come si dice, la gestione del Made in Italy, da non dimenticare che la maggior parte delle aziende di questo sistema sono nate a livello familiare e hanno puntato tutto, anche quello che è la capitalizzazione della loro vita. Se andiamo a vedere, troveremo che comunque la maggior parte, l'80%, sono aziende individuali. Non è poco, perché comunque tutte le volte che chiude un'azienda di questo sistema, la maggior parte è una famiglia che, certo, va a fallimento. Ci fermiamo un attimo per un brano musicale e poi torniamo ancora insieme. I got this feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Regola d'arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Seconda parte di A Regola d'arte con Francesco Galante, ma soprattutto con il nostro ospite al telefono, Laura Dalla Montà, presidente del sistema di categoria tessile, abbigliamento e cuoio dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Allora, abbiamo fatto capire che la situazione del settore non è tra le più rose, anzi c'è parecchia difficoltà, bisognerebbe riuscire a mettere insieme le forze proprio per progredire, no? Anche tecnologicamente, per riuscire a essere produttivi con costi relativamente bassi, anche se poi abbiamo capito che molto del lavoro che viene fatto all'estero viene pagato molto meno e quindi la cosa diventa difficile da far stare in piedi. È così, è proprio così. Pensavamo che ci salvasse un po' un decreto che imponesse il marchio Made in Italy, no? Ci siamo organizzati, alcuni hanno aderito, altri ci hanno provato, poi anche il mercato che quasi quasi non ti impone questa regola. Prima ho parlato di quello che era la mappatura, no? L'importanza della mappatura del prodotto o anche dell'etichetta parlante, no? Questo darebbe valore a quello che è il prodotto che va al consumatore. Tante volte lui è convinto di comprare un prodotto made in Italy, ma anche per i materiali stessi, no? Però è anche vero che un consumatore che va ad acquistare per 200-300 euro e forse a volte anche molto di più alcuni capi, forse non sa nessuno che vengono importati a 14 euro compresi il tutto. Dov'è che noi avremo spazio per lavorare? Attualmente riusciamo a fare qualcosa, ed è brutto dire così, perché il guadagno si ha quando si ha tanto lavoro, no? Mm-hmm. Attualmente le proposte che ci vengono fatte per le grandi griff, quali sono? Il progetto, il prototipo e lo studio dell'industrializzazione del capo. E vuol dire che effettivamente noi ce l'abbiamo un valore. Io tante volte mi chiedo, e anche in associazione ho chiesto, che il lavoro più grande si dovrebbe cominciare a farlo con quello che è anche la parte industriale, no? Mentre noi siamo rimasti è brutto da dire, la plebe del mercato, gli altri vanno avanti e noi siamo rimasti qua. Tante volte si pensa anche nel gruppo, anche nel nostro gruppo dell'associazione, stiamo percorrendo un percorso per tentare di fare un'aggregazione di aziende in maniera di proporsi nel mercato con la filiera completa. Completa. Ecco, proprio per questo intanto avete fatto un primo passo. 40 imprese padovane hanno già aderito al progetto 100% Made in Italy, dove si intende con questo marchio far capire che il prodotto è stato realizzato interamente in Italia, seguendo un disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento che sono stati compiuti esclusivamente sul territorio italiano. L'obiettivo di questo 100% Made in Italy è tutelare la vera qualità italiana sul mercato nazionale e mondiale, perché il prodotto realizzato a regola d'arte abbia spazio e visibilità. E quindi questo è già un piccolo sforzo che è stato fatto. Cosa succede? Che un'azienda chiede il marchio 100% Made in Italy direttamente all'Unione Provinciale Artigiani di Padova per poterlo inserire nei suoi capi. Il prossimo passo sarebbe quello che ha detto lei, di unire le forze per riuscire a veramente a portare un prodotto completo dalla A alla Z. È così. Poi questo quasi quasi non fattibile, perché è anche vero che in particolare noi veneti abbiamo una mentalità che non è così aperta al mercato, no? Abituati un po' a lavorare nelle nostre, ci ritroviamo tante volte con lo scontro, chi sarà il leader e tu mi porti via il lavoro, e invece proprio la difficoltà che stiamo incontrando è anche quella di dire no, per andare avanti dobbiamo far gruppo, e in particolare è l'associazione che ci sta aiutando. Sì, mi sembra di capire, concludendo, che il consumatore dovrebbe prestare molta, ma molta attenzione ai capi che compra, soprattutto cercare se ci sono scritte da qualche parte le parole importato, perché a quel punto lì vuol dire che non è un 100% made in Italy, anzi probabilmente lo è solo magari nella scatola in cui è stato chiuso dentro, o nel cambio della possibile etichetta, ma il prodotto arriva dall'estero. Prestiamo molta attenzione quando facciamo gli acquisti, perché questo comporta ovviamente un cambiamento dell'economia del nostro paese. Grazie quindi a Laura Dalla Montà, presidente del sistema di categoria TAC dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova. Le auguro un buon lavoro e chissà che riusciate nell'intento di presentare un vero 100% Made in Italy. Io ringrazio voi per avermi dato questa opportunità di parola, e buon lavoro anche a voi. Grazie. Chiudiamo come sempre l'appuntamento di A Regola d'Arte ricordandovi un servizio dell'UPA, la gestione contabile e amministrativa. In uno scenario in continuo cambiamento, le aziende hanno bisogno di consulenza specializzata. Per questo l'UPA offre ai suoi associati un servizio personalizzato di consulenze tributarie, contabili, amministrative, che tenga conto delle specifiche esigenze di ogni impresa, delle dimensioni aziendali e della tipologia di attività. A disposizione delle aziende consulenze specifiche in materia tributaria, di contabilità, di valutazioni di bilancio e di operazioni straordinarie tramite appuntamenti presso la sede provinciale dell'Unione Artigiani di Padova, presso la sede mandamentale di riferimento, presso la propria azienda. Le consulenze tributarie, contabili e amministrative offerte agli associati sono: tenuta della contabilità, registri e libri contabili, assistenza alle operazioni di acquisto e vendita in Italia e all'estero, analisi di bilancio, programmazione fiscale e consulenza per le decisioni di impresa, assistenza e atti societari e di imprese familiari, dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP e tributi locali, formulari diretti all'amministrazione, assistenza e tutela nelle verifiche, nei controlli, negli accertamenti e applicazioni degli studi di settore. Per informazioni, il servizio tributario provinciale dell'UPA risponde allo 049 8206 417. Sito internet www.upa.padova.it. A tutti voi un saluto e un grazie da Francesco Galante. Ci ritroviamo anche la settimana prossima. Avete ascoltato? A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.